E onestamente, stiamo così tirandola un po' lunga. Perché pensiamo che, come ci capita troppo spesso in questi ultimi tempi, dover dire parole o voler dire parole, proporsi di dire qualcosa, che abbia un qualche senso nel vuoto della scomparsa delle persone, sia un esercizio così inutile. Ne parlavamo proprio qua in radio qualche giorno fa, di come poi onori della cronaca, la notizia, sia in grado di distruggere, svilire, addomesticare, azzerare, appianare ogni onda emotiva, farne una normalizzazione di quello che è normale, non può e non deve essere. E perciò siamo in grande imbarazzo. E perciò quello che ci veniva in mente era semplicemente di raccontare un episodio. Un episodio semplice, successo un po' di anni fa, quando decidemmo con un compagno, un amico, insomma, di andare a faticare un po'. Ed era una giornata, credo, di ottobre. Era una giornata in cui erano rimaste tracce di neve, perché c'era stata una nevicata precoce proprio sul Gran Sasso. Il nostro giro sarebbe stato intorno al Vallone d'Angri e poi verso una montagna che, come tante altre, si chiama in Abruzzo, si chiama Morrone. Perciò partimmo da Roma molto presto, e dato appunto che la stagione non era una stagione che permetteva ancora di inforcare pelli e sci, abbiamo scelto le due ruote, la bicicletta, per andare a fare questo lungo anello, lungo giro. Quindi più o meno individuato il percorso e più o meno percorso lo stesso, ci siamo trovati in una situazione, diciamo, molto faticosa, perché c'era fango e neve, appunto, che aveva appesantito di molto le bici e le gambe ne risentirono parecchio, al che finimmo il giro affamati, felici, come succede in queste occasioni, in un'ora però in cui l'Abruzzo è chiuso, intorno alle 3:30, alle 4 del pomeriggio, di un giorno in mezzo alla settimana, non troverete nulla di aperto per paesini della zona. Per cui decidemmo di spostarsi, di provare ad andare al campeggio di Santo Stefano di Sessanio, che già conoscevamo. Per averci trascorso in diverse occasioni momenti belli. Interi fine settimana, insomma. questo Abruzzo chiuso trovammo un caminetto acceso, alcune tende di qualche tedesca che non avevano certo paura della neve e del freddo. E trovammo ad accoglierci Davide, che ovviamente stava pensando e facendo tutt'altro che sfamare due ciclisti montanari. Con le gambe pesanti, per cui immediatamente, come era suo costume, si dedicò in qualche maniera a noi, benché appunto non avesse nulla di pronto sotto mano. Si presentò subito fuori con due grossi panini fatti con due fette di pane tagliate lì al volo e due birre. Ci mettemmo sotto il sole che ancora era alta a scambiare quattro chiacchiere con lui. Appunto, sulla neve, sul tempo che cambiava sul Gran Sasso con grande facilità. E soprattutto quello che ci fece piacere fu la sua attitudine di vecchio rifugista, che comunque è sempre là pronto ad accogliere chi va in montagna, benché fossimo abbastanza a valle, a 1200 metri, e non c'era nessuna urgenza. Però quella è un'attitudine. O ci si è o non ci si è, così. Perché una cosa era certa, che forse il periodo della sua vita che cui più aveva nostalgia era proprio il periodo della gestione del rifugio Garibaldi sopra a Campo Pericoli. Questo ragazzo, questa persona, questo uomo era Davide De Carolis. Che è caduto giù ieri con quel maledetto elicottero. Molti qua a Roma lo avranno conosciuto negli anni ancora precedenti, perché frequentatore del centro sociale La Torre, sensibile alle storie, alle questioni degli artisti di strada e anche al tema della legalizzazione, l'antiproibizionismo. Un abbraccio in silenzio. A Teresa e a Sole, che abbiano la forza, come loro ce l'hanno, comunque di non far scomparire quell'eterno sorriso che portano sempre nel volto. Thank you.